sé yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io questa mattina vedo i titoli dei giornali e l'argomento che più emotivamente verrebbe di affrontare è quello dello stupro. Arrestati i sei romeni, autori del terrificante stupro a Guidonia, facce terribili, facce di persone che, in cui sembra di ravvedere con il senno del poi tutte le stigmate e tutti i segni del violentatore. Ma non è questo l'argomento di cui voglio parlare oggi. È un argomento che tocca la cronaca, un argomento che fa rabbrividire, ma un argomento che nella maggior parte dei casi di chi mi ascolta è solamente riferito a esperienze altrui. Noi abbiamo parlato non molto tempo fa dello stalking, di una sorta di pressione, di violenza psicologica, di affezione emotiva legata a un senso ossessivo e compulsivo di passione ossessiva nei confronti di una persona. Beh, questa mattina vorrei parlare di quel limaccioso interludio, di quella azione fastidiosa, a volte oppressiva, a volte anche molto violenta, che si colloca in un percorso intermedio tra lo stalking e lo stupro, che potremmo definire violenza sessuale. Cos'è la violenza sessuale? Cos'è l'insidia? Cos'è il fastidio che viene fatto quotidianamente e che si subisce quotidianamente? È la molestia che molte volte, soprattutto donne, subiscono, alla quale difficilmente riescono a reagire. Prima perché è impercettibile, è mellifua, è fastidiosa, non si capisce mai se ci si è sbagliati, se quella persona che ci si struscia addosso lo fa perché semplicemente l'autobus è molto pieno o perché ha un'intenzione fastidiosa nei nostri confronti. Non si sa se quell'amico, quel collega che incontriamo nell'ascensore, quel tipo di attenzione, quella mano che ci appoggia addosso lo fa perché è un da noi frainteso senso di affettuosità, di amicizia, di semplicemente bisogno di espandere una propria volontà relazionale o semplicemente un bisogno di mettere le mani addosso, di infastidire, di toccare, di rubare e rapinare intimità. Beh, questa mattina il tema sono le molestie sessuali. Se ne ha parlato tanto, se ne parla molto, a volte se ne parla con grande difficoltà, a volte si ironizza, si mitizza, a volte si sentono addirittura donne che dicono viva la faccia se qualcuno mi mette una mano sul sedere, significa che ancora sono interessante. Prendiamo per buona anche questa affermazione, ma quello che ci interessa capire questa mattina è qual è la possibilità che si ha di reagire e quanto il fenomeno sia esteso, perché penso che appartenga all'esperienza diretta di molte persone che ci stanno ascoltando e altrettanto appartiene all'esperienza diretta di molti uomini che ci stanno ascoltando il non aver resistito molte volte dal superare quella sorta di soglia che ci fa pensare ma forse la persona che abbiamo davanti accetterebbe un corteggiamento lievemente più invasivo. C'è negli occhi una forma di accondiscendenza al fatto che io possa sfiorare con una mano. Molte volte la molestia sessuale nasce proprio così, da un reciproco fraintendimento, da segnali sbagliati che ci sono scambiati, ma molte altre volte è un'azione ben mirata a creare un rapporto di supremazia nei confronti di una donna, molte volte di una sottoposta. La violenza e la molestia sessuale più frequente viene fatta nell'ascensore. Io ieri avevo lanciato l'argomento in Facebook, ma subito ho scritto una mia amica che conosco benissimo, ho detto guarda, mi è successo questa mattina nell'ascensore, un mio collega mentre salivamo in ascensore mi ha fatto dei complimenti per come ero vestita, ero truccata, poi probabilmente mi ha infilato un dito in bocca. Come si fa a infilare un dito in bocca a una persona? Cioè, io sono stata zitto, ho fatto finta di niente, anche perché ero il mio superiore. Ero su un autobus che andavo a scuola e questo tipo, questo uomo adulto si è avvicinato e ha cominciato un po' a toccarmi, insomma, molto avvicinato. È stato veramente terribile, avevo paura, ero bloccata, terrorizzata. Non mi scorderò mai quella faccia che aveva, la sua faccia. E poi c'è la gente, non dimenticherò mai come la gente... Non mi ha aiutata il menefreghismo di tutti gli altri passeggeri. In metropolitana, affollata, un maiale ha cominciato a strusciarsi e poi ha cominciato a toccarmi. Una sensazione orrenda, perché insomma, stai lì, non sai che fare. La cosa peggiore è proprio sentirsi, non so, usata e il non aver potuto fare niente per evitarlo. Insomma, è una cosa mortificante, terribile. La prima sensazione della donna molestata sessualmente in un luogo pubblico è la mancanza di solidarietà dalle persone che ha intorno. È capitato anche una volta a me, ma molti anni fa, di vedere in un autobus una chiara rappresentazione di un uomo che in maniera anche molto esplicita molestava nell'indifferenza totale una signora che stava seduta, esibendosi, strusciando, armeggiando, manipolando, come fanno naturalmente gli specializzati in questa materia. E attorno tutti facevano finta di nulla. Io, gagliardo ragazzotto dall'animo focoso, naturalmente intervenii, ma nessuno sottolineò il mio intervento, nessuno collaborò. Sembrava quasi che mi fossi impicciato di qualcosa non doveva riguardarmi. Ecco perché quando ci si trova testimoni di una palese molestia sessuale si tende a immaginare che esista una sorta di circolo separato e vizioso in cui la vittima deve vedersela con le sue stesse forze, con le sue risorse nei confronti di chi la sta molestando. E perché molte volte siamo propensi a immaginare che la vittima se la sia richiesta, sia condiscendente, abbia fatto gesti, maniere, omissioni o alterazioni di un normale rapporto di indifferenza per cui il molestatore si sia sentito in dovere di compiere la molestia. 800 24 00 24, se avete mai subito molestie o se abitualmente siete colui che interpreta la molestia come un passo necessario in un corteggiamento veloce, beh, fatecelo sapere. Mi è capitato un giorno sull'autobus, uno con la scusa della borsa del computer mi si strusciava addosso. Allora gli ho pestato un piede e gli ho mollato una gomitata e con occhi innocenti mi sono girata verso di lui e gli ho detto: mi scusi. Allora lui se n'è andato a gambe levate. È comunque brutto, frustrante, perché provi una sensazione di rabbia, di disgusto e di impotenza allo stesso tempo. Grazie. Io ho un negozio di abbigliamento e un mio cliente mi ha molestato. Le prime volte lo faceva solo a parole, l'ultima volta mi ha fatto la mano morta. Io vorrei fare una denuncia, ma non ho testimoni, che faccio? Anche a me è capitato. Ero sul treno e un tipo non si è soltanto limitato a mettermi la mano sul sedere e quindi a fare la classica mano morta. Mi aveva messo proprio le mani in tasca. Ovviamente a quel punto mi sono messa ad urlare ed è scoppiato un gran casino. Una cosa che vi lascia un po' perplesso, devo dire, ma la registro come registro tutte le sensazioni che percepisco attorno a me quando faccio un programma, è la prima reazione di due ascoltatrici che mi hanno scritto immediatamente quando ho iniziato questo programma. Una si chiama Francesca, l'altra si chiama Verusca. Francesca mi scrive: ogni tanto il segmento limaccioso compare in TV come pitbull che mordono i bambini, alludendo alla ricerca di trasmissioni, argomenti eclatanti per richiamare attenzione su di sé. Fa eco Verusca, dice: concordo con Francesca, vi ricordate, questo poi collettivo non so a chi riferito, a quale categoria apparterrei per essere chiamato con questo plurale maiestatis, di parlare di violenza sulle donne, molestie sessuali solo quando vi servono ascolti. Ora, premesso che grazie a Dio non è che mi servano ascolti, e premesso che mi piace variare ogni giorno il menù della trasmissione, trovo giusto questa mattina, in un momento in cui l'attenzione, l'emotività pubblica è su uno stupro, su qualcosa che coglie in maniera eclatante, anche se lacerante e dolorosa, l'opinione pubblica, la folla che vuole linciare i romeni stupratori e una persona fortemente violata nella sua intimità da un atto barbaro, selvaggio, quanto volete. Mi piace ricordare invece proprio questa parte intermedia di cui ogni giorno assistiamo negli racconti delle amiche. Io ho infinite amiche che mi raccontano ogni giorno del collega mano morta, del capo che le chiama improvvisamente a fare riunioni dopo l'orario d'ufficio, di persone che si approfittano di loro e loro non capiscono come mai sono state così fortemente fraintese. E poi continuano questi fatti di indifferenza, nessuno si è accorta, stavo nell'autobus, questo tranquillamente faceva i suoi comodi addosso a me e intorno facevano tutti finta di niente, tutte brave persone indifferenti. Questo era lo spirito con cui ho fatto questa trasmissione. Se poi nel vostro ordine di riferimenti, nella vostra esperienza di vittime mediatiche, pensate lo faccia per alzare ascolti, va bene, sottraetemi ascolti questa mattina, spegnete la radio, andatevi a fare una passeggiata o un giro in autobus. Come reagire alle molestie? 1. A richieste verbali moleste e specifiche, evita di rispondere in modo troppo generico, offrendo al molestatore una, seppur vaga, speranza di raggiungere il suo scopo. 2. Rivolgiti al molestatore dicendo apertamente e decisamente no, senza alternative, guardandolo negli occhi tranquillamente e seriamente. Usa un tono di voce deciso e sufficientemente alto. 3. In caso di molestie fisiche e tattili, grida con tonalità crescente «Vergogna! Giù le mani!» in modo che possano sentire anche altre persone, se ci sono. È lui che si deve vergognare, non tu. 4. Davanti a un esibizionista, evita di fare il suo gioco urlando e insultandolo. È proprio quello che cerca. Piuttosto, ti conviene reagire con indifferenza e tirare avanti. Questo è un piccolo, ci rendiamo conto, che non risolve nessuna situazione, vademecum di una possibile tentativo di reazione. Come si agisce? Molte volte direte facile, ti si blocca la possibilità di reagire. Questo è vero. L'immobilismo e la capacità di non avere reazione è la tipica situazione in cui il molestatore si trova a suo agio. Lui sa di creare uno shock, di creare una rottura di livello con la sua vittima e quindi naturalmente in quel momento approfitta il più possibile per portare a fondo la sua azione. Ecco, cominciano ad arrivare delle telefonate. Maria Paola, buongiorno. Buongiorno, dunque io ero in banca, parlo di un po' di anni fa. C'era un ispettore che purtroppo aveva un po' le mani lunghe. Io, sapendo come si sarebbe comportato, ci siamo trovati davanti a un ascensore. Ad alta voce ho detto: lei se prende l'ascensore io devo prendere le scale perché sennò le mollo una sberla. Sono stata richiamata perché, parlando di tanti anni fa, una donna non poteva permettersi di dire cose così. Ecco, questa persona si è data una regolata, ma poi per tutto il resto che io sono stata in quell'istituto. Ma quello, il pello, viene dopo, perché quando mi hanno dato un lavoro molto importante, questo mio comportamento è stato molto apprezzato. Beh, io sa... Ho fatto carriera, ma bisogna avere il coraggio di esporsi. Io lo dico molto francamente, la sua esperienza ci dà elementi di riflessione, ma... Ho altresì esperienza di racconti di persone amiche che aver avuto una reazione decisa di denuncia, di sottolineatura della molestia, poi si è passati dalla parte del torto, poi l'ambiente generale ha tentato a difendere il molestatore. Alla fine poi il molestatore, in una fase anche processuale in cui la vittima pure denunciato il molestatore, è diventata una persona che attribuiva attenzioni paterne a questa ragazza, la quale mette le mani sul sedere, e quindi tutta la cittadina, tutto il luogo è riuscito a proteggere il molestatore come se fosse un fraintendimento. No, invece quella persona lì poi non ha più avuto problemi con le ragazze perché si è data una regolata, cioè ha provato una vergogna immensa. E io sono stata giudicata non corruttibile. Beh, questa è una medaglia che si porta con fierezza al suo petto, quindi va benissimo. Va bene, grazie Maria Paola. Grazie, Liliana. Liliana. Sì, ciao Gianluca. Ciao. Alta storia di molestia. Sì, assolutamente. La mia è un'esperienza tra l'altro molto lunga, perché è durata diversi mesi, ovviamente non molestie all'inizio, non molestie pesanti, solo proposte molto esplicite, ma molto. Quasi giornaliere, perché questo era il mio collega di lavoro e avevamo preso un lavoro insieme. Io dico purtroppo, perché poi se avesse saputo come era andata a finire, insomma, quindi era un corteggiamento non corrisposto alla fine. Assolutamente, anche perché lui aveva 30 anni più di me, perché c'è ancora. E quindi assolutamente non era una persona. Ecco, il molestatore spesse volte, almeno dalla casistica che riguarda la mia esperienza, non si rende conto anche dei suoi limiti dal punto di vista del fascino fisico. Molte volte sono persone schifosamente bavose, persone che non hanno nessun appeal, perché che sono frustrate nel loro desiderio immenso di voler essere seduttivi e trovano altra maniera per imporre la propria seduttività che farlo con la violenza. Sì, sì, lui addirittura asseriva che nessuna donna si era mai lamentata delle sue prestazioni sessuali, figuriamoci a me cosa poteva interessare delle sue prestazioni sessuali. Tra l'altro erano anche particolari che a me non interessavano, lui me li esibiva tutti i giorni questo. Poi un giorno ci siamo trovati in treno, eravamo uno di fronte all'altra e lui stava parlando, non mi ricordo neanche più di che argomento. A un certo punto mi sono accorta che aveva quasi perso il filo del discorso e allora lo guardo, vedo, aveva la faccia tutta rossa, l'occhio lucido, viscido, e io veramente lì ho capito. E poi mi casca l'occhio, vedo dov'è la mano. E allora a quel punto lì gli ho detto: ma cosa fai? E lui mi ha risposto: io niente, proprio negava. Negava l'evidenza, ti lascio immaginare quale fosse l'evidenza, Gianluca. Sì, vabbè, A quel punto gli ho mollato una pedata proprio lì dove non batte il sole, devo dire, e basta. Poi mi sono alzata e ho cominciato a voce alta da dirgli: sei un porco, tutte le varie cose che insomma... Cioè hai messo in pratica il manuale che abbiamo sentito prima. Esattamente. Alzando poi gradualmente la voce gli ho detto: sì, cominciando a dire: ma non ti vergogni, ma sei un porco, e tutte le varie, i vari aggettivi che del caso. Ecco, sembrano, intanto salutiamo Liliana, sembrano assurde banalità, ma fanno parte della cronaca quotidiana, dei racconti delle donne. Le donne quando se li raccontano di loro, le donne quando hanno un amico, un confidente, raccontano episodi del genere. Episodi che poi devono seppellire nella loro memoria personale, perché molte volte non hanno possibilità di esito. Abbiamo al telefono il professor Massimo Santinello. Professore, buongiorno. Buongiorno. Docente di psicologia di comunità all'Università di Padova, si è occupato lei di molestie in modo particolare nel mondo del lavoro. Vediamo di aggiungere qualche elemento di certezza e di dottrina, se possibile, a quello che noi stiamo raccontando come semplicemente un doloroso fardello che ogni donna, bene o male, ha nella sua esperienza di vita. Ma devo dire che i fenomeni come quelli di cui avete portato testimonianza nella trasmissione sono abbastanza diffuse anche all'interno delle organizzazioni lavorative, direi in qualsiasi ambiente di lavoro. Le donne raccontano con una certa frequenza di aver vissuto nella loro carriera lavorativa, nella loro esperienza lavorativa, episodi di questo tipo. Sulla loro diffusione ci sono stime diverse nelle ricerche che si occupano del tema e in genere, come dire, per avere qualche numero, si parla di percentuali tra il 28 e il 70% di donne che dichiarano di aver avuto una qualche forma di molestia all'interno del contesto lavorativo. Questo sia che sia nel settore pubblico che privato, servizi sociosanitari, qualsiasi in fondo contesto lavorativo. Quindi diciamo che in linea di massima accade ovunque, non è circoscritto ad alcuni luoghi, alcune situazioni, non c'è un teatro specifico in cui la molestia sessuale è facilitata. Direi sì, è un comportamento, è un'esperienza stressante dal punto di vista delle vittime, che però è in grado di influenzare, come dire, anche la salute delle organizzazioni nel loro complesso. Non è solo una questione della vittima che subisce questo tipo di eventi, ma ne risente complessivamente la salute dell'organizzazione, perché spesso poi dipende, perché le molestie sessuali abbiamo capito che sono una categoria di comportamenti molto ampi. Sì, serpeggiano in comportamenti da molestie verbali, da molestie lievemente fisiche, anche molestie piuttosto pesanti, anche tentativi concreti di stupro, perché poi si arriva anche a quello. Stiamo toccando il tema delle molestie sessuali, delle molestie sessuali che si svolgono ovunque, si svolgono in qualsiasi luogo di lavoro, qualsiasi luogo di passaggio, si svolgono nei luoghi, nei non luoghi, si svolgono negli autobus, si svolgono nelle stazioni, si svolgono fra gli amici, si svolgono fra i conoscenti, si svolgono fra i colleghi, si svolgono negli ascensori, si svolgono alle feste, si svolgono in automobile, si svolgono con l'amico che ti dà un passaggio. Ma soprattutto, e su questo vorrei lievemente contestare un atteggiamento diffuso che vedo soprattutto trapelare dai messaggi che mi scrivono e che leggo sul mio monitor attraverso la rete, luogo in cui di solito è turbinio, è un fermento di idee, di suggerimenti, di testimonianze. Questo argomento ci si ferma di fronte all'ideologia. Ecco, dico, le battute di Berlusconi sono una vera molestia, molte volte sì, è vero, lo sono, ma non pensiate e non si pensa, non facciamo passare l'idea che comunque la molestia sessuale appartenga soltanto a un'ideologia, appartenga soltanto a una classe sociale. Ovunque si svolgono molestie. Ho sentito raccontare di infimi ricatti, di infime situazioni in cui sono state messe amiche mie in luoghi che apparentemente sono baluardi della libertà di pensiero, del politicamente corretto. Ahimè, è tendenza insita che un uomo, quando si trova in una posizione di superiorità, di prevalenza, di potere o comunque di impunibilità, svolga e manifesti questa sua attenzione violenta nei confronti di una donna, che dico che ha una gradualità estrema. Esiste la molestia sessuale che è impercettibile, che uno se ne rende conto dopo un mese, dopo una settimana, ma forse quella volta lì io potevo reagire, potevo fare qualcosa, perché sono stata zitta? Dico questo perché a me piace molte volte ricevere e ascoltare quello che mi raccontano le mie amiche, le donne che ho vicino, le mie persone che frequento più assiduamente. E quindi è questo il messaggio che mi viene dato molte volte. È l'approfittarsi di un momento di vulnerabilità ed estrema impossibilità di reagire. E buongiorno Ines. Buongiorno. Allora, io volevo raccontarvi di due esperienze tra le tante che tutte noi abbiamo bene o male subito, più o meno. Ecco Ines, scusi, prima che va avanti, lei è il classico esempio, avevo dimenticato la fattispecie che lei sta per raccontare, di molestia sessuale da una persona, dal luogo, da una situazione istituzionale in cui uno dovrebbe essere massimamente tranquillo e protetto. Quando va dal dottore? Esatto, allora io avevo 18 anni e dovevo fare un elettrocardiogramma per uso sportivo. Già in sala di aspetto vedo diverse signore, insomma 50-60 anni, sì, questo cardiologo è tanto bravo, ma ci fa fare sempre l'elettrocardiogramma, non capisco come mai l'infermiera. Arriva il mio turno, entro e il medico dice, beh, questa la faccio io. Guardo l'infermiera, la quale fa finta di niente, mentre mi applica gli elettrodi, mentre fa l'elettrocardiogramma mi palpa il seno, insomma in modo indiscutibile. Io sono rimasta francamente senza parole, senza possibilità di reagire, ho guardato l'infermiera con uno sguardo disperato, di aiuto, perché insomma era un'altra donna, grande, anche lei sulla cinquantina, e lei mi ha guardato come a dire, vabbè, che ci vuoi fare così? Ecco, mi è rimasto negli anni la rabbia, ecco, sicuramente per non aver reagito, ma d'altra parte che potevo fare? Avrebbero detto che ero una pazza, una visionaria, che mi ero inventato tutto. Mi è rimasto, adesso ho molti più anni, ho tre figlie, ho due figlie femmine, un maschio, e parlo con loro, cioè gli racconto che cosa non devono accettare dagli altri, che cosa non è giusto, quali parti del corpo non devono farsi toccare se non voglio. Questa è una situazione in cui è ancora più difficile reagire e il timore di essere prese come portatrici di un fraintendimento. Un medico che ti palpa potrebbe dirti, ma lei si sbaglia signora, la sto sentendo, la sto ascoltando, fa parte del mio mestiere. È ancora più terrificante, è ancora più squallido il tipo di violenza. Ma le ripeto, non è la prima volta che sento raccontare storie del genere. Il dottore Toccone è un classico, che poi è stato anche immortalato da un certo tipo di commedia, ma prima di arrivare appunto alle facezze da Alvaro Vitali. Secondo me questo è anche un settore su cui è molto difficile intervenire, ma su cui forse conviene parlare. Augusta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io appunto mi è successo, ma 30-40 anni fa, non adesso, che ne ho un paio d'anni. Comunque questo signore qua era il direttore proprio di questa agenzia di assicurazioni, veniva a casa a riscuotere questa parcella qua e veniva sempre nelle ore che mio marito non c'era. Allora, si è fatto avanti un pochino e gli ho detto che non stava bene a uno come lui fare queste cose qua, perché se fosse venuto a sapersi una cosa del genere non avrebbe fatto bella figura per il suo tipo di lavoro. E allora gli ho detto, ma l'ha visto mio marito, che allora era molto più bello anche di lui, ma anche non fosse stato più bello, cioè come si permetteva. Sì, ecco, non vorrei nemmeno fare una distinzione, forse qualcuno potrebbe fraintendere quello che ho detto prima, non è che il bello è autorizzato a molestare solo perché sì, è bello. Vabbè, però diciamo anche quello consisteva nella... Beh, certamente io no, perché si figuri, io sono una... sono una puritana, diciamo, come cosa, secondo me. Vabbè, questo, ognuno fa le sue scelte, questo vuol dire. Anche se lei fosse una donna che trasudasse lussuria, non è che uno può essere sentirsi in dovere di approfittarne, sì, così, sì, senza il suo permesso. Appunto, no, che non vorrei condannare le donne che invece a cui piace mettere in mostra la propria avvenenza. Questo non deve autorizzare alla violenza, perlomeno non dovrebbe chiedere prima. Anche quello, certo, certo. Comunque, appunto... aveva fatto marcia indietro, la prossima rata aveva mandato un suo impiegato, non è più venuto a casa. Quindi si è spaventato, diciamo, del fatto che ciò avrebbe potuto compromettere il suo lavoro. Professor Santinello, ecco, vediamo adesso se è possibile di spiegare un po' più dettagliatamente quali sono le possibilità di reazione, cosa si può fare in questo caso. Nella mia esperienza personale tutte le persone comunque sono andate per le vie legali, comunque sono rimaste molto deluse, devo dire onestamente. Sì, le vie legali sono, a mio modo di vedere, l'ultima strada che debba essere battuta in questo tipo di situazioni e va assolutamente perseguita quando si hanno delle prove abbastanza solide, proprio per evitare queste situazioni che è molto difficile avere, onestamente. Esatto, in cui si va la parola dell'uno contro la parola dell'altro e quindi è chiaro che ci si infila in una situazione molto complicata dal punto di vista. Poi, professore, molte volte il molestatore è persona rispettabile, persona di carisma, certo, è persona di potere, quindi cade sempre dalle nuvole, ha sempre una moglie che lo difende, ha sempre certamente una società che dice, ma figurati, tu sei che va in giro magari vestita in maniera indecente, ecco, questi sono i casi, certo, che mi è capitato di conoscere. Certamente, per quello, per chi vuole cercare di ridurre questo tipo, di controbattere a questo tipo di fenomeno, deve cercare delle alleanze, deve cercare di trovare sostegno a volte in associazioni di donne, associazioni sindacali, centri che sono diffusi nel territorio, che hanno affrontato, che hanno già un'esperienza in genere rispetto a questo tipo di fenomeni, che possono consigliare la vittima su quello che può essere il miglior comportamento da assumere per cercare di raccogliere delle prove, se si pensa che perseguire, cercare di adire a vie legali da questo punto di vista sia la soluzione. Però prima di arrivare là, secondo me, occorre cercare di trovare, almeno per quello che riguarda gli ambienti di lavoro, delle soluzioni interne. A volte sono possibili delle soluzioni interne se c'è una cultura dell'organizzazione basata sul rispetto tra i generi sessuali, sul rispetto tra i dipendenti. Ma io guardi, però, scusi se insisto, a costo di sembrare sgradevole, molte volte le organizzazioni sembrano alzare dei palizzati a difesa. Perché? Perché una denuncia, una situazione del genere, o la sottolineatura che quel particolare dirigente, quel particolare funzionario o quel particolare rappresentante sindacale, perché accade anche questo, è notorio che si approfitti delle colleghe. Molte volte il sistema tende magari, non so, a cambiare collocazione alle colleghe che creano il problema piuttosto che mettere in crisi l'organizzazione o le linee di potere. È vero o no questo? Sì, sì, questo è l'atteggiamento più frequente, la risposta dal punto di vista organizzativo più frequente, però abbiamo avuto anche situazioni diverse da queste. Ecco, ci sono esempi invece confortanti in senso opposto? Sì, qualche volta il molestatore è stato rimosso, è stato licenziato o è stato trasferito in altro reparto o, come dire, è stato sospeso dal lavoro per alcuni giorni. Dipende un po' naturalmente dalla gravità della molestia, dal tipo di situazione in cui ci si è trovati. Il che non voglio dire che la situazione sia ottimistica da questo punto di vista, però bisogna cercare di perseguire questo tipo di possibilità. Alcune organizzazioni, soprattutto di tipo pubblico, si sono dotate di codici specifici per affrontare questo tipo di fenomeni, di regolamenti interni specifici per cercare di mandare un messaggio a tutti i dipendenti in cui chiarire che alcuni comportamenti non vengono tollerati. Quindi è un deterrente innanzitutto il regolamento. Certo. È un deterrente ed è un modo per cercare di capire, di far capire a tutti qual è la politica dell'organizzazione per quel tipo di comportamenti. E due, identificare quali sono le conseguenze negative di chi continua a mettere in atto comportamenti di questo tipo. Perché, come anche qualche esempio che avete presentato voi, a volte può essere un problema di fraintendimenti comunicativi. Assolutamente, quello, certo. Quello che qualcuno pensa sia un corteggiamento, dall'altra parte viene visto come una molestia. Però qualche volta è così, e allora in questo caso un franco no, un far capire chiaramente che quel comportamento viene considerato sgradito, eccetera, interrompe il fenomeno e chiarisce la situazione. Diciamo una persona mediamente equilibrata capisce anche il segnale di stop e fa un passo indietro e si ferma. Una persona che in realtà ha un ego smisurato o una pochissima considerazione del proprio prossimo finge non capire quel segnale. Direttore, una cosa terribile sull'ascensore. Hanno scoperto che non è a norma. No, qualcuno mi ha toccato il sedere. Ilaria, mi ha fatto spaventare. Temevo fosse successo qualcosa di grave. Ma è successo qualcosa di grave, anzi gravissimo. Ilaria, non esageri. L'ascensore si sarà fermato di colpo. Qualcuno ha perso l'equilibrio e per non cadere l'ha sfiorato. Un banale incidente. Incidente? È l'ottava volta in due giorni che mi fanno la mano morta. Beh, otto volte non è poi tanto morta questa mano. Direttore, guardi che per una donna essere palpeggiata non è mica uno scherzo. Mi meraviglio di lei che fa dell'umorismo su un argomento simile. Se avessi voluto fare dell'umorismo, avrei detto che qualcuno si sta divertendo le sue spalle. Senta, io so benissimo di essere una donna attraente e posso anche capire che un uomo trovandosi così vicino a me in ascensore possa avere certe tentazioni. Appunto, visto che lei mostra comprensione, vediamo di non fare troppa pubblicità. Siamo nel mezzo di una fusione, non voglio problemi. Ah no, io voglio che tutti sappiano. Nel senso che andrò a fondo questa faccenda, troverò quel maniaco. Mi faccia solo un favore, se lo trova, anche se è uno dei nostri, dica che è stato uno della Digitex. Ma cosa fa a mettere mani avanti? Mai senza il suo permesso. È uno piccolo scivolo nella facezia e nella rappresentazione umoristica di un problema doloroso, ma avevi fatto sentire questa tranche di Camera Caffè, una sitcom abbastanza nota per chi segue la televisione pomeridiana, fa riflettere su quello che comunque è un atteggiamento diffuso. Ci si rivolge a un superiore, ci si rivolge a un collega, ma l'atteggiamento è quello quasi di ironizzare: ma sì, sei bella, è chiaro, ma che vuoi che sia. È anche vero che molte volte si può esagerare, si può drammatizzare, si può creare un problema, ma è altresì vero che se ci mettiamo per un attimo nei panni di una persona che subisce la violenza, che in realtà lo considera qualcosa di profondamente lesivo della propria integrità, qualcosa comunque ti dà fastidio, se la cosa non fa piacere, se la cosa non diverte, se la cosa non gratifica, è una cosa fastidiosa. Se la cosa diverte, a nessuno viene in mente di né denunciarlo né di farne un problema. Vuol dire che comunque esisteva un reale scambio di messaggi sottili che portava a quell'atto, e quindi non siamo qui a parlarne, quindi non fa nemmeno parte del problema che noi vogliamo toccare. Ma se la cosa minimamente non è accettata, non diverte, è come una sassata a ciel sereno, beh, allora entriamo nel campo della molestia. Dottoressa Reale, buongiorno. Buongiorno. La dottoressa Elvira Reale, autrice di Prima della depressione, editore Franco Angeli, libro in cui in un capitolo si parla anche delle molestie sul lavoro. Vediamo di circoscrivere anche dal suo punto di vista questo problema. Io trovo difficoltà a parlarne, soprattutto leggendo le reazioni delle donne. Alcune mi dicono: ma perché secondo te una donna dovrebbe raccontare e riportare alla luce un evento così doloroso della sua vita? Parlarne è inutile, anzi è morboso. È d'accordo? Allora, parlarne è essenziale, però io ho sentito un poco i discorsi fatti e secondo me occorre un chiarimento, soprattutto per le donne, cioè capire per esempio che il problema delle molestie sessuali è un capitolo di un unico libro che è la violenza di genere. Che voglio dire? Che all'interno della violenza di genere, poi spiegheremo che cos'è la violenza di genere, rientra la violenza sessuale, comprensive delle molestie sessuali, la violenza fisica, psicologica, economica, cioè tutte le violenze che toccano le varie sfere della vita di una persona. Infatti abbiamo detto che è un segmento di una gradualità, un segmento, che arriva fino allo stupro violentissimo. Sì, la violenza sessuale, dalle molestie allo stupro. senza soluzione di continuità, cioè è veramente il segmento di un percorso. E vari ambiti, quindi nella famiglia, nel lavoro, cioè tutte queste violenze, quindi ci sono tante violenze che entrano in un unico capitolo, la violenza di genere, e che hanno vari ambiti, la famiglia, il lavoro, la società. Ora, che cos'è la violenza di genere? Io credo che questo sia importantissimo dirlo alle vostre ascoltatrici, perché dà ragione di una serie di fraintendimenti, questa volta sì, sul problema della responsabilità femminile nel fatto che vengono agite molestie e violenze. E cito quindi quello che dice le Nazioni Unite nella dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne del 93. Violenza di genere è ogni atto di violenza indirizzato al genere femminile che rechi o possa recare alle donne un pregiudizio, sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche, compresa la minaccia di tali atti. E ancora, la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne. La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini e soffrono quindi delle discriminazioni. Ora, queste cose le dicono le Nazioni Unite, non le dice un gruppo femminista. Sottolineerei anche questo punto, visto che oggi dire femminista è considerato anche in parte ragione negativo. Sì. Stiamo parlando di un problema che tocca a noi, tocca le nostre fidanzate, le nostre mogli, le nostre amiche, le persone che vediamo per strada, le persone inermi. Tocca agli uomini in prima sì. persona, perché è un sì, problema di potere degli uomini sulle donne. Mm. Sì, no, io ho iniziato facendo il punto, rivolgendomi anche a noi probabili, presunti, a volte inconsapevoli, a volte reietti e colpevoli molestatori. Un altro punto di vista molto legato ad alcune sensazioni contemporanee è riassumibile, provo a raccontarglielo sceneggiandoglio. Gli uomini non sono più quelli di una volta, gli uomini non hanno più le palle, gli uomini non sono più capaci di corteggiare. Magari ci fosse un uomo che si rivolge a me con attenzioni virili, visto che oggi pensano tutti a depilarsi sopracciglia e a farsi la lampada. Ecco, qual è l'aspetto pericoloso di questo punto di vista, che è accettabile, anzi corrisponde a una concreta mancanza di responsabilità e di attenzione maschile? No, guardi, io ho tutto un altro punto di vista. Io dirigo un centro per il maltrattamento in famiglia, un centro clinico, psicologico clinico, e la situazione io la vedo ancora legata a un clima di intimidazione e di violenza degli uomini sulle donne, a questo esercizio del potere da cui derivano tutte queste violenze in famiglia e al lavoro. Quindi questa rappresentazione dell'uomo che non ha le palle, sinceramente io dal mio osservatorio non la colgo. Quindi credo che sia ancora un epifenomeno, non sia un fenomeno emergente, un fenomeno dominante rispetto al vecchio fenomeno che è ancora in pieno esistente della privazione di libertà e di capacità espressive da parte delle Quindi donne. A lei si rivolgono le vittime che sono fortemente lese da questo prolungarsi di molestie, quindi chiedono un supporto concreto. Non basta più raccontarlo, tenerselo dentro, ma c'è un vero disagio che ci si porta addosso. Non solo, ma ci sono effetti devastanti sulla salute. Questo è il problema per cui diciamo l'istituzione sanitaria, io come psicologa e dirigente di un'unità operativa di psicologia mi occupo di questo fenomeno, perché lo vedo nei suoi effetti sulla salute psichica e in particolare sul fatto che questi eventi che la donna subisce si traducono, se male affrontati, e purtroppo la donna è indotta dal contesto ad affrontarli male, le mettono in mano strumenti non idonei e si trasformano in depressione, che è una delle patologie emergenti. Quindi una molestata abitualmente in situazioni immagino familiari di relazione o con persone o che sul lavoro, o sul lavoro subisce violenze, molestie sessuali, qualsiasi cosa in famiglia o sul lavoro, facilmente entra nel circuito della depressione. Infatti la depressione è una malattia al femminile, le statistiche ci dicono questo. Invece per situazioni occasionali e sporadiche, non in maniera così insistente, qual è secondo lei l'effetto che ci si porta dentro? Allora, le molestie sessuali vengono definite come comportamenti indesiderati, irragionevoli ed offensivi per le persone che li subiscono. E questo, quindi, questo taglia la testa al toro a ogni possibile attenzione che viene considerata quasi come un corteggiamento. Quando ti dà fastidio è molestia, quando ti dà fastidio fa parte del questo gioco. È un criterio che il Consiglio europeo nel 90 ha stabilito. Sono comportamenti basati sul sesso, a connotazione sessuale, che offenda la dignità degli uomini e delle donne, perché anche gli uomini, sebbene in misura minore, possono essere offesi. E sono inaccettabili quando sono vissuti come irragionevoli ed offensivi. Ecco, il discorso delle molestie da uomo a uomo è stato toccato da qualche telefonata che mi era stata sottoposta. Mi sembra che questa mattina sarebbe stato fuorviante e depotenziante del valore di quello che stavamo dicendo parlare anche di questo tipo di fattispecie, che non escludo che in futuro potrebbe essere di nostro interesse. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.